piace. Di Raffaella Calandra. Riuniti in seduta straordinaria a Versailles, i parlamentari francesi tutti intonano la Marsigliese, il canto rivoluzionario, inno della Francia, e in questi giorni, dopo la strage di Parigi del 13 novembre, diventato l'inno della resistenza al terrore, di un paese che si risveglia in guerra e dell'intera Europa colpita al cuore, colpita nella sua giovinezza. Quella dei ragazzi uccisi al teatro Bataclan mentre ascoltavano musica, quella di chi era seduto al ristorante Petit Campoge e di chi quella venerdì sera di relax aveva deciso di trascorrerlo allo stadio. Giovani, in media trentenni, sono le vittime, 130, ma è così tante dalla seconda guerra mondiale. Ma ancora più giovani erano i loro killer, i kamikaze. Ventenni cresciuti in Francia o in Belgio, diventati soldati della guerra santa al servizio del califfato. Perché? Giovani accecati dal jihad, come quelli arrestati anche in Italia, come i tanti foreign fighters che dall'Europa sono partiti diretti in Siria, ma che a volte qui sono pure rientrati con i loro piani stragisti. E da qui allora, da Place de la République, dove Parigi si è ritrovata per ricominciare a vivere, parte questa puntata di Storiacce dentro le falangi dei jihadisti. Rue Corbillon 8, in un appartamento di un vecchio palazzo di Saint-Denis, nel più famigerato degli arrondissements parigini, si trovava il covo dei jihadisti, in uno squat sventrato dopo il blitz, in cui è stato ucciso anche la mente delle stragi di Parigi e in cui si è fatta saltare in aria la prima donna kamikaze d'Europa. Colta, bionda, in 6 mesi diventata ossessionata dalla guerra santa, ed è proprio intercettando lei che le forze speciali sono arrivate fin qui. Un passo falso nelle comunicazioni che in genere invece tra gli estremisti islamici non avvengono mai per telefono, solo in chat online, in quello che viene chiamato il deep web, dove è più difficile entrare. Così facevano anche i 17 presunti jihadisti individuati in un'inchiesta dei carabinieri del ROS guidati dal generale Giuseppe Governale. Le loro comunicazioni avvenivano sulla rete, avevano un sito che aveva una parte pubblica, dall'altra c'era tutta una parte in nero che solamente con determinate procedure tecniche si riusciva ad accedere, dove avevano delineato una sorta di meeting periodico attraverso cui si autoconvincevano della bontà delle loro ragioni, che loro non parlavano al telefono. I colloqui si verificavano attraverso la rete procedevano anche a un'attività di radicalizzazione spinta, all'arruolamento di alcuni di loro. In ben 6 casi è documentato nell'ultimo anno l'invio di foreign fighters. 2 di questi sono caduti in combattimento in Siria. Avevano delineato delle strategie che le stavano pianificando, che avrebbero portato alla realizzazione di attentati nella parte medio orientale, cioè tra l'Iraq e la Siria, ma le rappresentanze diplomatiche occidentali che avevano focalizzato erano essenzialmente 2, quelle della Norvegia e quelle del Regno Unito. Soprattutto in Norvegia volevano realizzare, diciamo così, delle azioni violente nei confronti di parlamentari norvegesi. Anche pare questi attentatori di Parigi avessero avuto delle comunicazioni attraverso una chat di una PlayStation. Hanno una conoscenza di realtà e di modalità di comunicazione che possono essere criptate molto? Possono essere criptate molto, sì, anche criptate molto. Chiaramente è attraverso il web e questo tipo di comunicazione via web che avviene anche gran parte del proselitismo. Certo, una parte del proselitismo certo che avviene nei luoghi di culto, alcuni, non voglio per l'amor di Dio adesso dare, puntare l'indice su, in genere sui luoghi di culto, ma i cosiddetti on ground si auto radicalizzano insinuandosi nelle pieghe di tutto quello che c'è disponibile sul web. Cioè, in queste chat, diciamo, coperte circolano materiali di che tipo? Video, materiale video, materiali scritti, rivendicazioni. Sì, anche di esaltazione del maschile. Abdelhamid Abaoud, 26 anni. Viso sorridente, barbetta incolta, sembra quasi fare simpatia nelle immagini del 2014 in cui a bordo di un pick-up esaltava la Guerra Santa. Lui che aveva arruolato anche il fratello di 13 anni, diventato il più giovane jihadista. Allah subhanallah, tracté des jet ski, des quad, des motocross. Qui avait établi sa responsabilité. Determinato e spietato, c'era sempre lui, Abdelhamid Abaoud, dietro quattro dei sei attentati sventati dalla primavera scorsa, soprattutto all'estero. Attentati, come spiega il ministro dell'interno francese Bernard Cazeneuve, preparati usando terroristi addestrati all'estero, ma poi rientrati in Europa. E questo è molto importante, perché questa è la dinamica più spesso ripetuta negli attacchi di matrice islamica. E questo è importante anche perché mostra una delle falle più evidenti dell'intervento intelligence di tutta Europa, dove Abdelhamid Abaoud era rientrato dopo vari viaggi in Siria, ma nessuno, lamenta il ministro Cazeneuve, l'aveva segnalato alla Francia fino al 16 novembre, quando arriva la notizia della sua presenza in Grecia. Si spostano e possono contare su una rete internazionale i membri del Commando di Parigi, una rete che passa anche attraverso l'Italia. Di sicuro c'è il passaggio nel nostro paese di Abdelhamid Salah, ma pure di qualche altro soggetto legato agli attentati francesi. E la conferma la dà a storiacce il procuratore aggiunto di Roma, Giancarlo Capaldo, titolare dell'inchiesta italiana per strage. Lo stesso che aveva indagato sui 17 arrestati la settimana scorsa. Cioè un mondo islamico che si è in parte disperso per l'Europa e mantiene contatti soprattutto via web tra di loro, formando una comunità non virtuale, il mezzo virtuale per un fenomeno reale, di una esistenza, di un'organizzazione reale, ma stabiliscono sul web le proprie azioni, i propri obiettivi e i propri contatti e anche le attività. Infatti attraverso il web questa nostra organizzazione, diciamo, acquisiva delle armi e ruolava delle persone che poi sono partite per andare a combattere, alcune di queste sono anche morte nel teatro di guerra siriano, in relazione all'obiettivo politico che l'organizzazione si prefiggeva. Sul web vuol dire che si addestravano a preparare ad esempio le cinture esplosive, come recuperavano armi che sono spesso anche i veri e propri arsenali da guerra. Non c'è una grossa difficoltà per i gruppi criminali in Italia e in altri paesi anche europei e a maggior ragione nei paesi del terzo mondo per acquistare delle armi. Quando serve si spostano anche e la presenza di persone sparse in altri paesi vuol dire anche che se per esempio, non so, dall'Italia si spostavano in Inghilterra o in Norvegia, così come invece ad esempio adesso sta avvenendo nella ricostruzione delle indagini del gruppo di fuoco di Parigi, sapevano di poter contare sulla persona X o Y che conoscono negli altri paesi, è così? Sì. Sì, la dispersione in tanti paesi consente anche per loro una più facile clandestinità. E quindi anche punti di appoggio in più paesi. Punti di appoggio in più paesi, per attività che sono attività minimali, non è che bisogna pensare a organizzazioni che hanno bisogno di grossi mezzi finanziari o di grossi mezzi anche, come dire, bellici per svolgere queste attività terroristiche. Bastano pochi elementi finanziari perché sono persone che vivono di poco, che si accontentano, come dire, di vivere in alloggi modesti, utilizzano le armi come quegli esplosivi che talvolta si possono comporre con sostanze che hanno anche una reperibilità facile sul mercato e un costo modesto. Comunque l'importante è questa rete relazionale che consente loro di avere contatti, di individuare un obiettivo, di svolgere una politica e poi di colpire degli obiettivi che i loro capi possono predeterminare. Questa riflessione, procuratore, vuol dire che se per esempio, come sta emergendo, come è emerso adesso, uno dei attentatori di Parigi è passato per l'Italia, vuol dire che poteva contare in Italia su una rete di appoggio, su almeno qualche persona che conosceva. È una deduzione che è logica, che appare in qualche misura fondata. Voi nella vostra indagine avete incrociato anche qualche nome che adesso diciamo, ritorna nelle indagini sull'attentato di Parigi? Sull'attentato di Parigi non abbiamo una conoscenza completa di quanto emerso dalle indagini in Francia. Per il momento non abbiamo un riscontro, se non di qualche passaggio in Italia di qualche soggetto, ma non di un'attività di questi soggetti in Italia. Naturalmente quando Parigi avrà completato l'indagine con più facilità si potranno approfondire questi elementi e capire anche se in Italia c'è qualche cosa di parallelo a quanto emerso a Parigi. Procuratore, lei dice qualche soggetto, quindi più d'uno, quindi non soltanto questo che è ancora fuggitivo, Abdeselman Salah. Su questi argomenti non rispondo. Ci spiega perché anche la Procura di Roma indaga per strage? La Procura di Roma è stata investita da una indicazione della Polizia Giudiziaria su questo, quanto avvenuto a Parigi, e quindi doverosamente è scritto il procedimento penale e iniziato le indagini. E poiché c'è una vittima veneziana e anche la Procura di Venezia ha iniziato un'indagine. Certo, quello che riguarda la morte di Valeria Solesina, ma per quanto riguarda voi, dal momento che non ci sono vittime romane, è per una segnalazione investigativa che collega Parigi a Roma? Sì, è semplicemente, come dire, un'attività doverosa fatta rispetto a vittime italiane sulla base di una indicazione di massima. Quindi immagino che farete anche richiesta di atti a Parigi? Certamente. Ma cosa c'è dentro la testa dei jihadisti? Perché giovanissimi, anche colti, decidono di darsi la morte e di uccidere altri giovani? Da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Storiacce. Loro uccidono nostra storia, nostra identità e uccidono tutti persone che hanno cultura, hanno educazione, hanno qualcosa avete fatto per la Siria. Non lo voglio vedere Palmira che è distrutta. Uccidono l'identità della Siria, uccidono il volto e i segni della storia siriana, i jihadisti. Come dice sconsolato l'ultimo direttore del turismo di Palmira, Mohamed Saleh. Eppure sono giovani, sorridenti questi terroristi del califfato. A volte possono risultare perfino simpatici, a guardarli dalle foto diffuse ora dalla polizia in mezzo mondo per gli attentatori di Parigi. Sono ventenni francesi, belgi, molto esperti di tecnologia, ossessionati dalla guerra santa, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce, giovani jihadisti cresciuti nelle banlieue parigine o nel quartiere Molenbeek di Bruxelles, dove a viverci sono solo gli arabi, o giovani come la cellula che in Italia aveva la base a Merano e che si preparava al martirio con attentati da fare in Medio Oriente o in Norvegia, perché ci resta solo quello, dicevano nelle intercettazioni registrate dai ROS guidati dal generale Giuseppe Governale. In maniera del paradossale si verifica talvolta che elementi che nella madre patria erano musulmani ma non particolarmente praticanti, sono arrivati in Europa, l'emarginazione li porta ad una rinascita dell'attenzione verso il mondo della religione oltranzista. E questo forse spiega anche da una parte la giovane età. Molto spesso. Esattamente. I giovani delle banlieue che dicono o faccio lo spacciatore o faccio il soldato. È un po' come nell'inchiesta vostra, c'erano quelle intercettazioni in cui dicevano non ho famiglia, non ho moglie, la mia vocazione quindi, è il martirio. Quindi rimane solo la religione, dove la religione tra virgolette il martirio. Cioè il fatto che si confermi come attraverso le comunicazioni sul web passa la maggior parte di un processo di radicalizzazione. È un processo che può essere lento o veloce. In Francia si parla di 1.000-1.500 foreign fighters sono pericolosi quando ritornano, perché sa, on ground le tecniche ma la prendono da internet, che coloro che vanno in zona di combattimento e poi ritornano associano a questa volontà del martirio anche le tecniche di combattimento. Ciascuno per i fatti suoi, ciascuno casomai chiuso nel suo quartiere ghetto come Molenbeek, ma tutti in rete tra loro, tutti uniti a comporre una cellula pronta ad entrare in azione, pronta a reclutare anche jihadisti come le donne spagnole che voleva arruolare via web Abdelhamid Abaoud, il regista delle stragi di Parigi. Lui che aveva reclutato il fratello di 13 anni e la cugina Asna, le cui ultime parole restano in quest'audio amatoriale registrato durante il blitz di Saint-Denis. Dov'è è il tuo compagno?» urla il poliziotto. «Non ho un compagno», grida lei, prima di essere travolta dalle esplosioni e da una cintura che in realtà si è scoperto poi non era la sua, ma di un terzo uomo non ancora identificato. In pochi mesi si era votata la guerra santa, Asna, come in passato è già successo anche alle giovani dell'elite giapponese. Ma per capire cosa c'è nella testa di un jihadista, per ricordarsi, come scriveva Primo Levi a proposito degli aguzzini nei campi di concentramento, che anche loro sono uomini, non serve la razionalità. Ma forse può aiutare, come ha fatto Marco Belpoliti, critico letterario sulla rivista online Doppio Zero, anche il lavoro fatto dallo scrittore Murakami in Underground, che intervista sia i sopravvissuti che i responsabili di un attentato col sarin. Diciamo, la tesi di fondo sostanzialmente è che noi non possiamo capire le cose irrazionali attraverso la nostra razionalità, non ci sono delle spiegazioni. Ci sono date delle spiegazioni di tipo sociale, mancato inserimento di questi giovani, spesso queste cose nascono da ben altro, nascono ad esempio dal desiderio di purezza, che è una cosa che gli adolescenti hanno, e allora si appoggia a questi predicatori, a questi imam che predicano una coerenza. Ecco, io ho fatto degli esempi traendoli ad esempio dal Giappone, dalle sette giapponesi, da Aum, che è questa setta che negli anni 80 creò un attentato col sarin, con un gas terribile nella metropolitana di Tokyo. Erano persone perfettamente educate, anzi uno di questi era un medico, eppure si sono consegnati tutti a un guru. Credo anche che un po' questo sia uno dei temi di questi giovani, cioè consegnare il proprio io a un io più grande, accettare degli ordini. E poi c'è anche un elemento che io non ho aggiunto nel mio testo, che riguarda, diciamo, questo narcisismo adolescenziale, giovanile. Guardate cosa vi farò, voi mi avete confuso, siete degli impuri, siete delle persone lontane dalla fede, io mi farò esplodere. C'è questo senso anche della vendetta. I giovani kamikaze erano persone estremamente istruite, colte, parlavano molte lingue, avevano letto la filosofia europea, eppure questi ragazzi, questi giovani, nel 2000, sono saliti su questi apparecchietti, su questi aerei, sono scagliati contro le navi americane. Ecco, si sono affidate ai loro direttori di coscienza. Luoghi diversi, ma uno stesso filo unisce gli attacchi di Parigi con quello commesso esattamente una settimana dopo in Mali, nell'hotel degli occidentali, il Radisson, dove 170 persone erano state prese in ostaggio dai jihadisti di Al-Murabitun, uno dei vari gruppi passati dalla galassia di Al-Qaeda al Califfato. E in quest'ottica allora la Francia e il Mali non sono così distanti, commenta il collega Gigi Donelli, profondo conoscitore dell'Africa e appena rientrato da Parigi. Ormai sono almeno 25 anni che questa situazione si sviluppa e muta. Prendiamo per esempio ACMI. ACMI è il gruppo jihadista responsabile delle operazioni in Mali. Bene, il suo percorso è lungo e anche fisicamente prevede uno spostamento dal nord, dall'Algeria, verso il cuore del Sahara. La transizione, il contatto con i gruppi famosi, diventati nel frattempo famosi come Al-Qaeda in particolare, e da lì l'associazione, quindi il cambio di quello che era il GIA, il gruppo salafita per la predicazione nel combattimento, che dal 2005 si affiglia formalmente Al-Qaeda rinominandosi ACMI. Ecco, questo è un esempio. Da lì poi altre associazioni, altre costellazioni che coinvolgono sicuramente gruppi anche noti a livello internazionale come Boko Haram, naturalmente operativo in un altro contesto ma non troppo distante tra la Nigeria, il Niger e anche in parte il Camerun, e Al-Shabaab, legato più al sud della Somalia, al territorio kenyota, di cui ricordiamo solo, ma ci sono molti episodi, la strage di Garissa dell'aprile dello scorso anno. La rete nera dell'islamismo radicale e assassino. Hanno uomini pronti a tutto e soldi, tanti soldi, i jihadisti di Daesh, ISIS, soldi che arrivano da finanziatori di 40 paesi, ha denunciato il presidente russo Vladimir Putin, e per fermare loro, come ogni forma di criminalità, il primo e di sicuro più efficace strumento è proprio bloccare i loro canali di finanziamento. Per questo l'Interpol ha introdotto un nuovo progetto, Silver Notice, avvisi che permettono a 190 stati di condividere le informazioni e poter confiscare tutto quanto è frutto frutto di reato, proprio come già avviene in Italia, e dall'Italia lo mutua l'Interpol, come spiega Filippo Di Spensa, membro del comitato esecutivo dell'Interpol, al microfono di Livia Zancanerra. Andiamo alla ricerca non solo del denaro in quanto tale, ma dei beni immobili finanziari proventi di attività criminali. Cerchiamo anche con questo progetto di prevenire il finanziamento dei gruppi terroristici. Il riciclaggio al crimine organizzato è necessario come l'aria che si respira tutti i giorni, perché il denaro va ripulito e va reso legale, e quindi cercando di ripulirlo ci si riversa in altri mercati, ci si riversa in altri paesi, ci si riversa verso altri sistemi finanziari. Okay. La Silver Notice è una diffusione di una notizia alla ricerca chiaramente di questi beni, di questi proventi da attività criminali. Contro i giovani, ma anche contro i monumenti, simbolo del passato e della loro stessa storia, si scagliano i jihadisti, che si sono accaniti contro i templi di Palmira, città che appartiene non solo alla storia, ma anche al mito. Linea ora alle mitiche storiacee e a Giorgio Ioranò, professore dell'Università di Trento e autore di saggi sulla mitologia greca. Mitiche storiacee. Uno dei templi più veneranti di Palmira era il tempio di Baal, antico signore del cielo e del fulmine. Lo chiamavano il Partenone di Palmira. Dobbiamo usare i verbi al passato, perché il tempio di Baal non c'è più. È stato distrutto quest'estate dall'ISIS. È stata davvero, e non è solo retorica, la distruzione di un simbolo. Il simbolo di un'epoca remota, in cui la religione, piuttosto che dividere, univa. Quello stesso Dio che i siriaci, i fenici, adoravano come Baal, era venerato anche dai greci e dai romani, che lo identificavano con le loro divinità supreme. Nei tempi in cui Palmira fioriva come gemma del deserto, grande città carovaniera, e la sua leggendaria regina Zenobia sfidava persino gli imperatori di Roma, il Medio Oriente era una terra in cui le religioni e le divinità si mescolavano. I culti di fenici, arabi, siriaci, greci, romani, egizi non si contrapponevano, ma si contaminavano. In un mondo politeistico gli dei erano abituati a convivere. Non ci potevano essere i kamikaze di Zeus. Certo, la gente si ammazzava anche allora, il sangue scorreva, ma l'idea di una guerra fatta in nome di un dio al mondo pagano sarebbe apparsa insensata. Per riascoltare questa come le altre storiacce, il sito è radio24.it. Ma a voi, i fatti di Parigi e l'allerta terrorismo che si respira anche in Italia, ha fatto cambiare delle abitudini? Avete esperienze e storie da volerci segnalare? Scriveteci a storiacce@radio24.it, perché i vostri racconti troveranno spazio nella pagina delle vostre storiacce che abbiamo introdotto sul sito. Ma ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti da Raffaella Calandra. We'll be right back.